as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Eccoci di nuovo qui ad Il Pane e le Rose. Oggi puntata che non ha, sono quelle puntate, no? Ogni tanto lo dico, quelle puntate che non vorrei fare. Però purtroppo in Italia ogni giorno ne accade una. Dovrei essere abituato, però certe volte la realtà supera la fantasia, ma di tanto. Perché tutti avete sentito che si sta discutendo del DDL sicurezza in Parlamento. Il 25 settembre siamo andati a un presidio, c'è stata prima una manifestazione, non dimentichiamo, la Bologna, diciamo, dei centri sociali e altri gruppi che si sono, insomma, hanno protestato contro il DDL sicurezza. Ma il 25 settembre tocca ai sindacati confederali, tranne la CISL. Voglio sottolineare che la CISL è riuscita, non è riuscita nemmeno a protestare contro il decreto di sicurezza. La dico, basta, non faccio commenti. La CGIL e la UIL, davanti a questa vergogna, perché un paese democratico non può avere un pensare una cosa del genere, però è successo e sono anche molto convinti di quello che hanno fatto. C'è stato questo presidio dei sindacati confederali davanti alla prefettura di Bologna, in piazza Roosevelt, e siamo andati. Lì abbiamo intervistato Michele Bulgarelli, segretario della CGIL, che ci ha spiegato le ragioni di questo presidio e di quello che si vorrà fare in futuro e come si dovranno andare avanti per cercare di impedire questo decreto. E ho qualche dubbio che con le semplici manifestazioni tranquille si riesca a fare, però. E poi ci sono tutte tante questioni che abbiamo affrontato con Michele Bulgarelli. Io vi invito ad ascoltare la intervista che arriverà dopo questo bellissimo pezzo sensibile, perché sì, è vero, io mi sento molto molto sensibile in questo momento, molto sensibile. A dopo. Thank you. giudice chiese a Francesca perché lo scelse come compagno di vita. A questa domanda rispose con una frase da ginnario nichilista, lapidaria, nel senso di lapide. Ci fossero gli altri ragazzi che aveva frequentato, non ci è dato sapere. Di sicuro Francesca con gli uomini non è stata fortunata, e la parola sensibile resta dubbio ambivalente come il coinvolgimento dei NAR per i fatti del 2 agosto 1980. Francesca Mambro è citata nei ringraziamenti in un disco intitolato Abbiamo pazientato 40 anni, ora basta. Sensibili anche loro. Per evitare di confondere la sensibilità con la versione fascista e stragista, stabiliremo dei limiti. Definiamo quindi neosensibilismo il nostro modo di essere sensibili. Il tutto si distacca dall'ambiguità di Francesca Mambro, da cui ci dissociamo anche per l'uso sconsiderato e irresponsabile del vocabolario. Signora Mambro e il camerata Fioravanti sono fuori di galera. Fa male ammettere che al momento vincono 2-0. Siamo qui, piazza Roosevelt, presidio contro il DDL sicurezza, è stato un bel presidio, c'è la CGIL insieme alla UIL qui a protestare contro questo decreto vergogna. Siamo con il segretario della CGIL Michele Bulgarelli, il ex segretario Piom. Sì, manifestiamo e abbiamo deciso di farlo in tutte le piazze d'Italia, davanti alle prefetture, in contemporanea con il presidio nazionale di fronte al Senato. Perché oggi arriva al Senato, dopo essere stata approvata alla Camera, il DDL sicurezza, o meglio DDL repressione. La CGIL e la UIL hanno scelto da subito, in poche ore, di indire questi primi presidi perché vogliamo provare a impedire l'approvazione del decreto. È un decreto sbagliato sotto tutti i punti di vista, un condensato di populismo penale che mette insieme tanti argomenti diversi, uno più odioso dell'altro, perché se pensiamo alla limitazione della possibilità di protestare pacificamente per i detenuti in carcere, in cui sappiamo come sono le condizioni carcerarie e quindi nemmeno manifestazioni pacifiche possono avvenire da parte dei detenuti. E poi pensiamo alla clave sui movimenti sociali e quindi non si fa nulla per l'emergenza abitativa, ma si reprimono i movimenti per l'abitare, si reprimono i movimenti ambientalisti che protestano contro le grandi opere o per il pianeta, si reprimono il movimento dei lavoratori. Noi veniamo da una storia in cui non solo la difesa delle fabbriche passa da lotte dure, durissime, blocchi stradali, picchetti davanti ai cancelli, pensiamo alla saga Coppi, pensiamo alla Marelli, pensiamo alla Perla, pensiamo alla Fiat, ma pensiamo anche quando i metalmeccanici conquistarono il contratto del 2008 invadendo la stazione di Bologna. La nostra è una repubblica con la Costituzione nata dalla Resistenza che prevede una democrazia spinta avanti dal conflitto, il conflitto democratico. Oggi avremo bisogno di più conflitto democratico in un paese in evidente crisi, con 18 milioni di italiani che decidono di astenersi e un governo che non ha la maggioranza nemmeno di chi è andato a votare. Un governo arrogante che se la prende con i più deboli, le donne, i carcerati, i lavoratori, i poveri, i migranti. Pensate alla disumanità del provvedimento per cui un migrante non potrà più, senza permesso di soggiorno, prendere una scheda SIM. Quindi dovrà prenderla dalla criminalità organizzata. E pensiamo che questo è il paese di Satnam Singh, ammazzato dal proprio datore di lavoro. Un ennesimo favore alla criminalità organizzata e alla malavita. E quindi c'è una repressione nei confronti del movimento dei lavoratori che noi non possiamo accettare. Oggi siamo in piazza, puntiamo a fermare il decreto sicurezza, ma guardiamo all'autunno che si sta scaldando, alle mobilitazioni contro la manovra finanziaria, ma abbiamo raggiunto il risultato. Noi, come CGIL, ma anche insieme alla Via Maestra sul referendum costituzionale, quindi ci aspetta una primavera referendaria. Li possiamo fermare. Eravamo davanti all'aeroporto proprio in questi giorni. Diciamo che questo DDL avrebbe potuto quei lavoratori metterli in condizioni anche di avere delle sanzioni penali. Certo, cioè è un attacco anche al diritto di sciopero, perché questo è lo stesso governo che un anno fa ha precettato i ferrovieri nello sciopero generale di CGIL e UIL, gli ha precettati un ministro sotto processo per sequestro di persone, quindi la dice tutta sulla qualità di questa, della classe dirigente di questo governo. I lavoratori dell'aeroporto hanno scioperato con coraggio, chiedendo un premio di sito e aumentare i salari, perché se il problema dell'Italia sono i bassi salari, dati OCSE, non è che i salari si aumentano da soli, si aumentano grazie alla determinazione dei lavoratori. Se quindi quando scioperi ti si abbatte su di te e sui lavoratori la scure della repressione penale, si manda un messaggio che lo status economico deve rimanere così, le diseguaglianze devono congelarsi. Noi abbiamo un'altra storia, questo paese ha un'altra storia, quindi compito di tutta l'Italia democratica, sicuramente Bologna farà la propria parte, è cercare in tutti i modi di respingere il DDL sicurezza. Dei referendum che hanno avuto molto successo, c'è cioè quello là sulla questione che attacca anche i contratti nazionali, l'autonomia differenziata, cioè, insomma è un attacco anche al mondo del lavoro, siamo anche in piazza anche per questo, perché è insieme al DDL di sicurezza c'è anche il fatto che l'autonomia differenziata attacca anche la questione contrattuale. Certo, ma l'autonomia differenziata ci porta dritte alle gabbie salariali, Quindi con la fine dei contratti nazionali. Io invito gli ascoltatori a guardare il video in cui un compagno della Fiommi in pensione, Valerio Molinari, ex delegato della Sirmac di Valsamoggia, racconta quando c'erano le zone salariali, che fu grazie all'FLM che furono acquisite nell'immaginario comune come gabbie. Noi tutti parliamo di gabbie salariali, ma si chiamavano zone, e Bologna non era nella zona 1, Bologna era nella zona 3. E ci racconta cosa voleva dire per dei lavoratori avere una percentuale più bassa del salario del settore. Vogliamo tornare là? No, la nostra storia è quella che dobbiamo andare avanti. E quindi aver raggiunto in agosto il numero di firme necessario per andare al referendum è un buon auspicio, però dobbiamo portare a votare 25 milioni di cittadine e cittadini in un paese in cui la metà non va a votare. È compito di tutti e tutti convincere i propri amici, colleghi e compagni di lavoro. Certamente noi lo siamo, lo promuoviamo ogni puntata, chiaramente i film sono stati raccolti e bisogna andare a votare. Con la raccolta anche di autonomia differenziata sarà più semplice sicuramente. Ora però il DDL sicurezza sappiamo che in Parlamento ha una forte maggioranza, in Senato non so se riusciamo a fermarlo. Ci sono iniziative, la CGIL a livello nazionale sta pensando a organizzare qualcosa di più concreto contro questo DDL sicurezza che ci colpisce direttamente? Penso che finirà nella discussione del 7 ottobre, cui è convocata l'Assemblea Generale Nazionale, che deciderà le iniziative dell'autunno. Ok, speriamo bene. Grazie mille. Grazie a voi. Oh. Avete ascoltato l'intervista a Michele Bulgarelli, fatta il 25 settembre a Piazza Roosevelt a Bologna, al presidio contro il DDL Sicurezza, poi un bellissimo pezzo, Yama, di Camilia. Non dimentichiamo oggi quello che sta accadendo in Libia, in Palestina. Lì c'è una guerra, c'è un genocidio in atto, c'è un'invasione imperialista, anche se Israele non è un vero e proprio paese imperialista, ma comunque si comporta come se lo fosse. E per questo dedichiamo questa canzone a chi oggi soffre in Libano e in Palestina. Detto questo, affrontiamo l'argomento del giorno, DDL Sicurezza. Allora, io vorrei insomma fare una piccola sintesi di quello che prevede. L'aspetto più importante per me come lavoratore è la questione del blocco stradale. Non è che gli altri non siano importanti e di un certo peso, ma quello del blocco stradale è quello che ha fatto dire, io ho visto su YouTube un ministro, il ministro che diceva chiaramente: l'abbiamo fatto per colpire i sindacalisti dei Sicobas e anche gli altri, perché ad esempio faceva l'esempio della logistica e ci sono stati tantissimi blocchi stradali che hanno fermato le merci. Insomma, è chiaro questa attività sindacale. Trasformare il blocco stradale come illecito amministrativo a un illecito penale, ma se sei in gruppo anche fino a 2 anni di carcere, ci fa diventare peggio della Russia. Lo dico chiaramente: per liberare dei compagni in Russia che avevano manifestato pace, abbiamo speso circa 400 euro, oggi in Italia, se manifesti anche in maniera pacifica, rischi fino a 2 anni e si fa un blocco stradale. Insomma, io vorrei dire che questo io penso che sia di una gravità assoluta, ma però non dobbiamo parlare solo di questo, perché c'è anche la questione del deturpamento e danneggiamento dei beni pubblici. Cioè, un aumento di pena incredibile. Non solo non si può fare il blocco stradale, ma se causi un danno per qualsiasi ragione. Poi anche un'altra parte di questa legge è incredibile. Cioè, il paese dell'Andrangheta, dei più grossi trafficanti di cocaina del mondo dopo i colombiani e i messicani, siamo noi italiani con l'Andrangheta, si colpisce la cannabis light. La cannabis light, io vorrei dire, cioè, chiunque si è fumato una cannabis light sa benissimo che, cioè, ti sballa meno di un chinotto analcolico, ecco, per farvi capire. E sono riusciti a fare una legge contro la cannabis light, è incredibile. Poi c'è anche una parte che si aumentano le pene per chi occupa le case. E anche contro la rivolta alle carceri, lo diceva anche Bulgarelli, anche se tu manifesti pacificamente non lo puoi più fare, come nei centri di accoglienza. Tutta una serie di aumenti di pene per questi reati. Il problema è che prima erano previsti anche per chi facesse violenza, oggi basta manifestare che si viene colpiti da questa scure. E poi c'è anche la questione che sono reati penali per chi ha del materiale che viene considerato a finalità di terrorismo. Questo è, voglio ricordarvi che in Ucraina basta avere una bandiera russa per essere accusata di essere un figlio russo e ti fai fino a 10 anni di carcere. Quando non parliamo di 10 anni di carcere, ma sono, anche qui c'è il carcere previsto. Siamo arrivati a un livello quasi ucraino. Poi c'è tutta una questione di argomenti che sono, secondo me, stati tutti pilotati in questi anni dalle televisioni e dai giornali, che fanno sì che molti lavoratori, loro si aspettano che molti lavoratori non guardino tutti gli aspetti più che altro sindacali, tutti gli altri aspetti, e si concentrino su questi ultimi problemi giganteschi che affliggono il nostro paese, visto che ci sono video, trasmissioni intere di cui si parla. Delle truffe, l'abrogazione dell'esecuzione delle misure cautelari in carcere per donne incinte, no? Perché si fanno vedere in televisione le donne, insomma, incinte che vanno a rubare e loro dicono: siamo incinte, non possiamo andare in galera. Con questa cosa qui, insomma, cercano di andare alla pancia delle persone. Poi anche per chi, no? Un decreto anti-rom cosiddetto, cioè penale per chi usa i minori per fare accattonaggio. Sono tutte questioni che vanno alla pancia dei lavoratori italiani, degli italiani in generale, e sono fatti apposta, ma in realtà sappiamo che loro hanno altri obiettivi, quelli di fermare le manifestazioni sindacali, dei pacifisti, degli ambientalisti, dei centri sociali, di chiunque voglia manifestare e protestare. Insomma, anche la questione dei carceri, dei centri di accoglienza. Insomma, questa è una cosa secondo me molto molto grave. Il DDL sicurezza però va combattuto in maniera molto radicale. Abbiamo visto quello stesso in Francia, dobbiamo fare uguale. C'è bisogno di una battaglia veramente di movimenti in strada, di lavoratori, nelle fabbriche. Bisogna programmare lo sciopero generale. Molto probabilmente lo faremo, lo sciopero generale, però non basterà, va preparato, abbiamo parlato nell'ultima puntata, va creato, vanno spiegati ai lavoratori le questioni fondamentali che ci sono all'interno di questo decreto. Ecco, io spero che si scenda in piazza, si fermi questo governo che ormai è liberticida e antidemocratico, è palesemente antidemocratico, ci avviciniamo sempre verso più un modello russo-ucraino, possiamo dirla così. E spero che i lavoratori se ne rendano conto e non guardino la questione che c'è la depenalizzazione dei reati di truffa, no? Insomma, fanno vedere queste vecchiette che vengono truffate, si ti vanno nella pancia, la questione dei rom, di chi ruba nelle metro, sugli autobus, come se fossero il problema principale in Italia. Ce ne rendiamo conto, se il paese della mafia, l'andrangheta, della camorra, è il problema principale, sono quelli che rubano sulle metro, ok? Questo significa che non, cioè, siamo d'accordo che queste persone facciano questi reati, ma ci rendiamo conto che in realtà questo governo fa di tutto tranne che colpire veramente i grandi gruppi, i grandi clan mafiosi. Ecco, io spero che cambi, ci serve un partito comunista rivoluzionario che possa portare i lavoratori in strada a fare delle manifestazioni, delle lotte radicali, e spero che questo avvenga anche all'interno del sindacato. Ecco, con questo augurio io vi lascio, ci sentiamo martedì prossimo. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución, sí señor, la revolución, sí señor, sí señor. Somos la revolución, tu enemigo es el patrón.